Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, vi stavo aspettando perché oggi entriamo in una stanza molto speciale, quella dello psicoterapeuta, dove molti uomini e donne entrano per svolgere e poi riavvolgere il filo della propria esistenza. Chi l'ha vissuta in prima persona pensa che una psicoterapia sia una grande opportunità nella vita, a volte altre persone ne rimangono tremendamente deluse. Allora la domanda è: cosa rende efficace una terapia e quali psicoterapie sono disponibili per chi ne sta cercando una? Questa domanda ci è stata suggerita da una lettera di un'ascoltatrice, ve la faccio ascoltare e poi ci riflettiamo insieme. Ho avuto non pochi problemi nella mia vita e ho capito che non ce la potevo fare da sola. Così ho chiesto aiuto ad uno psicologo. La prima volta è durata 6 mesi. Non è scattato proprio nulla. Stavo perdendo tempo. Ho mollato e credo proprio di aver fatto bene. La seconda volta è andata meglio, ma un pomeriggio, quando per l'ennesima volta il mio terapeuta ha risposto al cellulare e si è messo a parlare di cose che chiaramente non erano urgenti, mi sono alzata e non sono più tornata. Non so se ho fatto bene o male. Sento che in quel momento ho seguito il mio istinto e non me ne pento. Dopo molte titubanze, un anno fa ho seguito il consiglio di un'amica e ho provato di nuovo. Ero molto diffidente, ma il nuovo terapeuta ha davvero toccato in modo profondo i miei bisogni. La mia vita sta andando meglio e mi chiedo perché persone diverse che fanno lo stesso mestiere producono effetti così differenti sui loro pazienti. Ero io a non essere adatta ai primi due terapeuti o erano loro a non fare bene il loro mestiere? Ma la psicologia è scienza, cosa che l'ultimo terapeuta mi sembra incarnare bene, o fantascienza? Impressione che ho avuto dall'esperienza con i primi due terapeuti consultati. Ecco, una lettera, un problema, un dubbio che probabilmente riguarda molti di noi e oggi vogliamo proprio capire se esiste una psicoterapia o tante diverse psicoterapie e soprattutto cercare di scegliere quella più adatta a noi. In linea è tornata a trovarci la professoressa Anna Oliverio Ferraris, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Ordinario di Psicologia dello Sviluppo all'Università Sapienza di Roma e direttrice della rivista Psicologia Contemporanea. Una rivista che non parla allo specialista ma alla gente, fa come si dice divulgazione e orientamento. Ed è curioso pensare che riviste di questo tipo per i nostri genitori forse sarebbero state impensabili e invece oggi ce n'è un grande bisogno, perché volenti o nolenti lo psicologo sta diventando sempre più un riferimento per molti di noi. Professoressa Oliverio Ferraris, perché? Perché ci sono stati dei grandi rivolgimenti nella nostra società in tanti ambiti diversi, dal lavoro alla vita familiare, l'organizzazione anche della vita familiare, la scuola con l'apparire sulla scena dei nuovi media, cioè molte cose sono state rimesse in discussione. E quindi la trasmissione culturale, che in genere si verificava da una generazione all'altra quando i cambiamenti erano meno rapidi e meno frequenti, è un po' andata in tilt, diciamo. Quindi spesso, che ne so, i nonni e i genitori si sentono non hanno sufficienti cognizioni per poter fronteggiare i nipoti e i figli, insomma, perlomeno hanno questa sensazione che le cose sono talmente cambiate e quindi loro non hanno gli strumenti per poter capire il mondo in cui vivono i giovani. E la nostra rivista, perché a cui collaborano non soltanto psicologi ma anche sociologi, antropologi, filosofi e così via, affronta tematiche tutte attuali e ha appunto l'obiettivo di dare degli strumenti in più. Qui in studio con me ho chiamato i rinforzi, aiuti, Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta. Allora oggi vorremmo dare proprio quegli strumenti, perché ci sono, bisogna sapere che esistono per poterli usare. Come la gente comune, Alberto, può informarsi, capire, sapere su quali sono gli aiuti ai quali possono fare riferimento? Ma intanto la gente, proprio noi, dovrebbe pensare che su alcune situazioni effettivamente non siamo in grado di fare tutto da soli, conseguentemente abbiamo davvero bisogno di aiuto. E poi probabilmente proprio consapevole che i tempi sono cambiati e non ci sono più le persone di una volta, i problemi di una volta, tutto va così veloce, come diceva la professoressa Oliverio Ferraris. Ecco, lo psicoterapeuta può essere davvero un aiuto, un sostegno. Molti lo identificano con la figura dello psichiatra, cioè una figura che ancora deve essere usata da chi ha una patologia, e invece effettivamente lo psicoterapeuta può essere un alleato per la crescita personale, una persona che ti aiuta in un momento di svolta, in un passaggio di crisi, può essere colui che ha degli strumenti che a te mancano o in realtà che anche tu hai dentro però non sai di avere. Il signor Soprano? Sì. Si accomodi. Secondo quanto mi ha riferito il dottor Cusamano, il suo medico di famiglia, lei giorni addietro ha avuto uno svenimento, probabilmente un attacco di panico. Aveva difficoltà a respirare. Che è stato un attacco di panico lo dicono loro. Certo, gli esami neurologici e del sangue sono tutti negativi. E mi hanno spedito qui. Adesso come si sente? Bene. Senta, io non ce la faccio a parlare con gli psicologi. Nessuna ipotesi sui motivi del suo blackout? Non lo so. Stress, probabilmente. Causato da cosa? Non lo so. La mattina del giorno che sono stato male ero pieno di pensieri. È bello lanciarsi nelle cose quando sono ancora agli inizi. E io sono arrivato un po' troppo tardi, questo è chiaro. Ma da un po' di tempo ho la sensazione di arrivare sempre quando tutto sta finendo e il meglio è già passato. Allora, se non ce la fate a parlare con gli psicologi, se volete imparare, capire come invece parlare, perché chiedere aiuto, se questo aiuto è necessario, parlatene con noi. 800 24 0024, il nostro numero verde, ma anche i messaggi 349 238 6666. Vi ricordo sempre il nostro profilo Facebook, e come spesso accade anche oggi abbiamo una proposta per voi per aiutarci a scrivere il testo della nostra trasmissione. Mandateci un sms e diteci in una frase perché nella vita la psicoterapia è stata una vostra alleata, che cosa vi ha permesso di conseguire, oppure se mai vi avete fatto ricorso diteci a che cosa vi servirebbe una psicoterapia in questo momento della vostra vita. Prima della fine della trasmissione uno dei vostri messaggi riceverà a casa il libro della professoressa Anna Oliverio Ferraris, grazie alla collaborazione con IBS.it, con IBS, che si intitola Chi manipola la tua mente, vecchi e nuovi persuasori, riconoscerli per difendersi. Ma torniamo alla lettera, che è il caso da cui prendiamo spunto per la trasmissione di oggi. La storia che abbiamo ascoltato della nostra lettrice, ascoltatrice, è una storia frequente, cioè c'è il rischio, professoressa Anna Oliverio Ferraris, di non trovare subito lo psicoterapeuta giusto? Eh sì, può succedere purtroppo, perché ormai sono molti, alcuni sono molto ben preparati, si appoggiano a delle scuole, lavorano con dei colleghi che li aiutano nel controllo dei casi che seguono. Ecco, questo è molto importante, poter lavorare insieme ad altri e poter esporre i casi che uno segue ad un altro collega in modo da evitare di prendere delle cantonate o di fare degli errori. Poi naturalmente c'è chi ha più esperienza alle spalle e chi invece è agli inizi. Poi ci sono tipi di terapie diverse, alcune più adatte per certi disturbi e altre per altri. Cioè, ci fa qualche esempio? Per esempio le terapie cognitivo-comportamentali funzionano abbastanza bene per le fobie. Per esempio, se uno invece ha una problematica esistenziale, diciamo più profonda, può andare bene alla psicanalisi. Poi dipende anche dal tipo di preparazione culturale che il paziente ha alle spalle, per cui può trovarsi meglio con un certo tipo di terapia piuttosto che un altro. Per gli alcolisti, per esempio, si usa la terapia di gruppo, che funziona abbastanza bene, così per le persone bulimiche spesso la terapia di gruppo, il sostegno dato dalla presenza di altre persone che hanno lo stesso tipo di problematica può aiutare molto. Quindi di volta in volta, a seconda del tipo di problematica che ha il cliente paziente, Bisognerebbe indirizzarlo ad un tipo di terapia piuttosto che un'altra. Poi ce ne sono anche di brevi, non necessariamente lunghe, solo che molte persone sono abituate a pensare alla psicoanalisi e quindi a terapie che durano mesi o addirittura anni. Ecco, e c'è già un modo diverso con cui noi ci relazioniamo con lo specialista. Lo psicoanalista rimanda al lettino e lui è dietro, Alberto. Da uno psicoterapeuta ci si siede davanti. Sì, cambiano. Quindi proprio... sdraiato o seduto, questo fa la differenza anche in psicoterapia. Cambia proprio il setting, perché generalmente se entrate nello studio di uno psicoterapeuta che è dotato del lettino, molto probabilmente troverete di fronte qualcuno che ha una formazione psicodinamica. A voi viene chiesto proprio di stare lì sul lettino, solitamente lui sta alle vostre spalle e quello che conta in modo profondo quindi non è più la relazione, lo sguardo diretto, ma è quello che succede dentro di voi, che deve pian piano emergere attraverso il lavoro che fa il terapeuta. In altri modelli psicoterapeutici invece questa posizione del terapeuta non solo non è suggerita, ma proprio non è indicata, per cui invece bisogna stare l'uno di fronte all'altro, guardarsi negli occhi e dentro proprio a questa dimensione di intersoggettività forte, molto, molto intensa, possono succedere molte cose. E questo è anche uno degli aspetti per cui alcune terapie che non sono di natura psicodinamica spesso sono più veloci, ma la velocità non sempre poi è un'alleata della qualità del risultato che si ottiene. Vede, la cosa interessante per me, a parte l'ovvio senso di colpa sessuale che avevo da giovane nella storia, è che non è cambiato niente. Io sono passati gli anni e avevo un analista sia allora che adesso. E sono 6 analisti di distanza, ho 3 mogli al mio attivo e non riesco a mettere in ordine la mia vita amorosa. Io non lo so che cosa mi succede. Io. Henry Apezia, il magico Woody, 6 analisti, però anche 3 mogli, che forse andando dall'analista si cambia anche la moglie. Professoressa Oliverio Ferraris, sicuramente qualcosa cambia, vero? Sì, ma credo che Woody Allen non volesse mai uscire da questo rapporto con lo psicanalista, di cui probabilmente aveva un grande bisogno, e quindi si fa accompagnare dallo psicanalista per tutta la vita. In realtà quando una terapia riesce bisognerebbe abbandonare lo psicanalista, questo sicuramente. Ma forse per Woody Allen, che era anche un artista, un regista, un attore, andare dallo psicanalista era anche una fonte di ispirazione, un modo per poi riflettere sui suoi sentimenti, per scavare nell'inconscio, per tirar fuori sempre qualcosa di nuovo da poter mettere nei suoi film. Ecco, quindi Woody Allen non va preso come esempio, perché una psicanalisi non può durare tutta la vita. Lo stesso Freud, adesso dagli ultimi libri che escono di suoi pazienti, poteva anche fare delle terapie brevi, non necessariamente erano lunghissime, non solo, ma a volte era anche direttivo, dava anche delle indicazioni sui comportamenti da tenere. Soprattutto negli ultimi tempi, quindi diciamo che il bravo psicoterapeuta è quello che poi si adatta anche alle problematiche del suo cliente o paziente, qualcuno chiama cliente, qualcun altro paziente, e lo segue e può anche cambiare un po' il suo atteggiamento in rapporto al momento della terapia, insomma, se iniziale oppure se si sta andando verso la fine. Maria ci chiama da Napoli, 800 24 00 24. Rassicuro subito Gianni, perché parleremo anche del costo della terapia. Non è il primo messaggio quello di Gianni, che ci invita a fare una riflessione anche su quanti soldi si devono destinare per farsi prendere in cura, farsi ristrutturare, cercare insieme allo specialista quegli strumenti che magari abbiamo ma non sappiamo di avere. Maria, buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono stata in psicoterapia e ho fatto la cognitivo-comportamentale. Sì. Ho praticato molto per trovare un bravo psicoterapeuta. Infatti ogni pomeriggio mi andavo da Napoli a Roma e facevo questa cognitivo-comportamentale, però che tutte le nostre conversazioni venivano registrate in cassetta. Questo l'ho fatta 10 anni fa. Sì. E le posso dire che ho risolto un 90% dei problemi. L'unico problema è che quando finisce la, cioè il paziente pensa che sia finita, lo psicoterapeuta non vuole lasciarti mai. Infatti l'ho dovuto lasciare io dicendogli che non mi aveva fatto niente di buono, l'ho lasciato con un po', diciamo, ferendolo, perché mi è sembrata di essere, cioè di essere in mano sua e che un oggetto che lui non voleva lasciarmi. E quindi ho dovuto dire basta, la terapia non mi è servita a niente, proprio per ferirlo e per rompere. Allora, Maria si chiede, ma ho dovuto proprio farlo, ma ha fatto bene Maria, è frequente il caso in cui uno si debba inventare qualche cosa anche a costo di ferire lo psicoterapeuta per liberarsene, per non fare come Woody. Ma della storia di Maria mi piace il fatto che lei nel momento in cui racconta poi la sua psicoterapia ne parla come di un intervento efficace che le ha fatto bene, e quindi non ha funzionato qualcosa nel passaggio finale che invece è chiaramente un passaggio importante, proprio come quando uno usa uno psicofarmaco, non puoi smettere dall'oggi al domani di prenderlo. Un terapeuta, prima di dirti abbiamo finito il nostro lavoro, lavora con te sulla necessità di doverci lasciare, di doverci separare, e credo che essendo una relazione molto intensa e molto importante, questo è proprio un passaggio che va programmato, va gestito, va curato, ecco, va accompagnato bene. Un terapeuta però non può permettersi, perché ha un paziente, di tenerlo ad oltranza, cioè già il fatto che il paziente dice vorrei provare a smettere dovrebbe essere accolto dal terapeuta come un elemento che dice prepariamo allora la separazione. Professoressa Oliverio Ferrares, ci dia lei delle indicazioni, prendendo proprio spunto dalla storia di Maria, per capitare in buone mani e capire quando è il momento di andare. Ma di andare dallo psicoterapeuta? Sì, certo. Ma io direi bisogna un po' informarsi, un po' al passaparola. Oggi è questo, oppure rivolgersi agli ordini, gli ordini degli psicoterapeuti, gli ordini degli psicologi per avere un consiglio. Ecco, questo in forse cui è l'ideale, perché ormai ci sono parecchi ordini. Uno espone il suo problema e l'ordine dovrebbe dargli delle indicazioni. Tra l'altro io volevo anche far presente che oltre alle psicoterapie c'è anche il cosiddetto counseling, cioè quando uno ha un problema così urgente da risolvere, non gravissimo, cioè in due o tre incontri, a volte anche un unico incontro, si può così affrontare il problema e trovare delle soluzioni. Cioè questo funziona per esempio molto con i genitori quando hanno dei problemi con i figli che ne so, non vanno bene a scuola, sono dipendenti dal computer o hanno altre problematiche del genere. Beh, non è necessaria una terapia chiaramente, però serve questo, dei colloqui chiarificatori. Perché? Perché quando uno è dentro al problema spesso non riesce a depolarizzare, a vedere altri aspetti, no? Non riesce a vedere delle soluzioni. Invece chi sta fuori dal problema e in più ha anche un'esperienza ti può aiutare molto. Noi andiamo a sentire i mercati, il meteo e poi torniamo insieme. 800 24 00 24, io e il mio psicologo. Dal mio psicologo o forse dal mio psicanalista, insieme alla professoressa Anna Oliverio Ferraris ed Alberto Pellai cerchiamo di così trovare gli strumenti e anche le persone giuste, se è il caso, di rivolgersi a loro. Professoressa Oliverio Ferraris, io tornerei su queste due figure così diverse che spesso vengono confuse. Che cosa fa la psicanalisi e quale approccio ha di diverso la psicoterapia? Ma la psicanalisi in genere cura persone che hanno delle nevrosi, è una terapia, diciamo, che si snoda nel tempo, perché è il paziente stesso che man mano scopre in se stesso i motivi del suo disagio. Lo psicoterapeuta fa da specchio, non dà molte indicazioni pratiche. Cioè lo psicanalista non fa domande? Sì, può fare qualche domanda per far emergere le problematiche, ma più che domande, appunto, cerca di indirizzarlo verso così una comprensione dei suoi stati d'animo, delle sue emozioni, delle sue reazioni. Però diciamo, quello ortodosso evita di dire fai così e fai cos'ha quando esci di qui. Mentre, come ci ha spiegato prima molto bene appunto il dottor Perlai, ci sono altre forme di psicoterapia che invece danno proprio delle indicazioni concrete. Tra l'altro non abbiamo parlato per esempio della terapia della famiglia, dove spesso ci sono vari membri della famiglia che vanno tutti insieme dallo psicoterapeuta, e allora lo psicoterapeuta analizza il tipo di relazioni che si creano proprio durante la seduta psicoanalitica per capire i rapporti che ci sono in quella famiglia e da dove nascono i problemi. E anche lì è un modo per farli emergere, per far prendere coscienza alle persone del tipo di dinamica che ci sono in questo sistema famiglia. Ecco, una grossa differenza per esempio tra la psicoanalisi e queste terapie sistemiche è che la psicoanalisi cerca di curare l'individuo, mentre queste altre terapie sostengono che una persona vive e si muove all'interno di un intero sistema e quindi reagisce, diciamo, agli altri, e bisogna prendere in osservazione tutto quanto il sistema, se è possibile. Voglio leggere un messaggio di Fabio che ci scrive: le ho provate tutte, sono stato anche in analisi, ma con la psicoterapia, comportamentale, stai subito meglio. Alberto, è vero? Hai subito un beneficio? Ma o è andata bene? Il comportamentalismo puro parte proprio da una cosa che ti sta succedendo e che ti fa stare male, quindi parte dall'oggetto di sofferenza, di disagio, di dolore, e da istruzioni interviene in modo molto potente, molto forte. Conseguentemente è vero che con le indicazioni del terapeuta il soggetto riesce in tempi molto veloci ad attenuare la potenza del sintomo che l'ha portato nella sua stanza. È anche vero, come molti dicono, che il comportamentismo puro in realtà poi non lavora sul sintomo, ma non sugli aspetti profondi. Ma io quando vado da uno psicologo gli dico: scusi, lei che tipo di psicologo è? Ma direi che per uno che sa la differenza dateci tra i vari approcci è molto importante capire. Questa è proprio la prima seduta, una seduta fondamentale, perché è una seduta in cui intanto si condivide un contratto terapeutico. Il paziente deve avere chiarezza, proprio come dicevano molti SMS, anche di qual è il costo, non solo di tempo e di energia, ma anche monetario, al quale dovrà andare incontro per sostenere il percorso che lo aspetta. E l'altro aspetto è: insieme devono capire qual è il metodo di lavoro, perché non è il terapeuta che cambia il paziente, ma è il paziente che cambia se stesso grazie a ciò che gli offrirà il suo terapeuta. 800 24 00 24, se volete parlarne con noi. Ricordo, continuate a mandarci i vostri messaggi, il messaggio che ci racconterà in una frase perché nella vita la psicoterapia è stata per voi una vostra alleata, cosa vi ha permesso di conseguire, oppure se mai vi avete fatto ricorso, perché vi servirebbe una psicoterapia in questo momento della nostra vita. Il messaggio, la frase più incisiva, potrà ricevere a casa, grazie alla collaborazione con IBS, Chi manipola la tua mente, vecchi e nuovi persuasori, riconoscerli per difendersi, scritto dalla professoressa Anna Oliverio Ferraris, che è anche nostra ospite. E questi costi, Alberto? I costi vanno, cioè ogni terapeuta poi ha il suo costo, varia moltissimo da città a città, varia moltissimo in base all'esperienza del terapeuta, proprio a quanto è qualificato. E direi che solitamente una seduta privata di psicoterapia non può costa proprio il prezzo minore, probabilmente tra i 40 e i 50 euro, ma da lì in su poi tutto diventa possibile. Per cui è molto importante, soprattutto all'inizio, capire quanto dovrò sostenere sul piano economico per poter fare questo percorso. Professoressa Oliverio Ferraris, non ci sono altre alternative? Se io ho bisogno, ma in un momento particolare della mia vita, insomma in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, insomma i soldi non ci sono, ma io ne ho bisogno, posso rivolgermi altrove, posso riuscire a trovare questo aiuto senza pagare tutti questi soldi? Ci sono delle altre strutture? A chi mi posso rivolgere? Ma per esempio, sì, uno si può rivolgere alle ASL, per esempio, Dipende dal tipo poi di problematica. Se uno ha un disturbo psichiatrico può rivolgersi appunto ai reparti psichiatrici degli ospedali e così via, insomma. Quindi bisogna avere un disturbo molto serio. Ci sono anche le comunità che possono aiutare, non so, nel caso di dipendenze da droga e così via. Insomma, bisogna fare un po' il quadro. Ci sono, della però situazione. Ci sono problemi quotidiani che magari arrivano proprio delle dipendenze, ma un servizio che è a disposizione di tutti i cittadini è il consultorio familiare, che è dotato di figure psicologiche. Solitamente dentro al servizio c'è sempre una giornata che si chiama giornata per i colloqui di accoglienza, dove si va senza nemmeno prendere l'appuntamento. Fatto il colloquio di accoglienza, che è con uno psicologo, spesso si viene poi indirizzati a uno degli psicoterapeuti lì in servizio con pagamento del ticket, che però è molto modesto, e presi in carico. Tu mi conosci? Sì. E invece no. Va bene. Hai visto la mia foto sul giornale? Sì. E invece no. Neanche lo compro il giornale. Io ho un caro amico. Questo amico mio ha dei problemi e magari gli serve uno psicanalista. Perché ritiene di necessitare di una terapia? Io non necessito di terapia, te l'ho detto adesso, è per il mio amico. Mi scusi. Non mi avevi sentito? Sì, mi scusi. Questo amico è un tizio molto potente, non aveva mai avuto problemi con niente e adesso all'improvviso casca a pezzi. Piange senza ragione, non può dormire e poi gli prendono delle specie di attacchi. È come se si sentisse quasi morire. Lui vuole solo sapere che cosa deve fare per farseli passare. Signor Vitti, io qua mi devo esporre un po'. Io credo che l'amico sia lei. Sei bravo. No. Dottore, grazie. Tu sei bravo. Tu sei bravo, mi terrò in contatto con te. Da terapie pallottole, il cinema ha molte volte scelto di raccontare storie di terapie, relazioni paziente-psicoterapeuta, e in linea per raccontarci i film che hanno esplorato proprio questa relazione abbiamo Marta Cagnola. Ciao Marta. Ciao, sono contenta che siate partiti con terapie pallottole, perché mi sentivo un po' in colpa, perché ho fatto un po' di ricerche e alla fine io non volevo buttarla per forza in caciara, però ci sono un sacco di film divertenti che parlano di questo argomento, partendo proprio da terapie pallottole, film del 1999 diretto da Harold Ramis. Noi abbiamo sentito gli straordinari doppiatori italiani, però i protagonisti erano Robert De Niro e Billy Crystal, Strizza Cervelli, come ormai diciamo anche in italiano, traducendo Shrink americano. È divertentissimo. Meno divertente Un boss sotto stress, che è il sequel. Purtroppo si sa che nei sequel è sempre così. Però io appunto ti dicevo, ho fatto un po' di ricerche e ci sono davvero un sacco di film divertenti. Io vi vorrei consigliare di rivedere due film italiani. Uno, ci avete sicuramente pensato anche voi, Ma che colpa abbiamo noi, sì, diretto da Carlo Verdone, nel quale ci sono gli 8 pazienti dello stesso gruppo psicoterapico. All'inizio del film muore la psicoterapeuta. L'abbiamo messo sul nostro profilo Facebook, Laura l'ha messo lì, e devo dire che è magnifico, perché a sentirlo, ad ascoltarlo per radio non rendeva, ma è magnifico. Scusami Marta, t'ho interrotto, dimmi. No, ci mancherebbe altro, è divertentissimo. Poi un altro film italiano da recuperare, poi in questo periodo secondo me ancora di più, perché così è un modo per stare ancora più vicino a Francesco Nuti, che poco a poco ce la sta facendo, è Caruso Pascoschi di Padre Polacco. Sì, è vero. Film dell'88, anche qui Caruso diventa psicanalista, si trova ad affrontare i casi più disparati del mondo, la sua fidanzata scompare, si rifà, la moglie scompare, si rifà viva solo per chiedere il divorzio, e si scoprirà che si è fidanzata con un paziente di Caruso. Di Caruso. Ecco, il film era molto divertente, non ve lo racconto da capo perché altrimenti vi tolgo il gusto di rivedere Caruso Pascoschi di Padre Polacco, 1988. Ci sono anche poi dei film d'azione. Marta, sui film d'azione noi torniamo, perché adesso ci muoviamo e andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. 800 24 00 24 11 e 45. Martoschi. Eccoci qua. Ecco. Allora, vi cito velocemente ancora due film, così si avvicina anche il fine settimana, siamo a metà settimana, magari qualcuno si segna i titoli. Analisi finale, un thriller con Richard Gere e Kim Basinger, 92, erano ancora particolarmente affascinanti. E poi divertente, Terapia d'urto con Jack Nicholson e Adam Sandler, diretto da Peter Segal. Però, cara Nico, sai che adesso pure Nanni Moretti si sta dando alla psicoterapia? Dai. Abbiamo avuto le prime rivelazioni di questo Habemus Papam, che è il film attesissimo che uscirà tra febbraio e marzo. Meno male che ci abbiamo la nostra Marta, perché lei mi dà sempre tutte queste piacevoli soffiate. Raccontami. In realtà anch'io ne so pochissimo, perché come sai Nanni Moretti svela molto poco dei suoi film, ma la scorsa settimana ci ha mostrato le primissime immagini. Dai. Abbiamo un papa, che è Michel Piccoli, un papa un po' inebetito nel momento in cui viene eletto, perché gli viene una crisi di panico e il papa va in cura da uno psicanalista che è interpretato da Nanni Moretti in persona. Si sa pochissimo di questo film, alcuni sono state mostrate solo alcune brevi immagini, alcuni fuori scena peraltro molto divertenti, però si sa che sarà un film che parla proprio della tra l'altro di una seduta psicoterapica di questo papa. Tra il papa e senti Marta, però anch'io ti voglio dire che c'è un libro che affronta in parte questo tema, si intitola Preti sul lettino e io ho in linea uno dei due autori, il dottor Giuseppe Crea, quindi Marta ti restituisco, cioè tu mi hai dato un'anteprima, il libro c'è già, però forse tu non lo sapevi. Vi ascolto allora. Grazie Marta, un bacio. A presto, grazie. Ribuongiorno dottor Crea. Buongiorno a lei. Sembra quasi un paradosso, no? Mi passi questo termine. Un sacerdote a cui di solito ci si rivolge per chiedere aiuto e che sappiamo, no? E che pensiamo avere un equilibrio, una fede, una direzione. Ecco, anche questo prete in alcune situazioni può avere bisogno d'aiuto. Credo che sia una relazione, insomma, un passaggio importante nella vita di un sacerdote. Certo, quanto è difficile per un sacerdote fare questo passo? Abbiamo letto anche dai nostri messaggi la difficoltà di molte persone di affidarsi, di scegliere lo specialista giusto. Per un sacerdote questo è ancora più dura? Direi di sì. Direi che è un passo fondamentale il fatto di scegliere, di decidere anzitutto di farsi aiutare. È un passo fondamentale perché vuol dire che il sacerdote riconosce di avere delle difficoltà, riconosce di essere anche lui fallibile, fatto di carne ed ossa, perché se non c'è questo passo poi difficilmente è possibile intraprendere un percorso. E a chi rivolgersi? Dalla mia esperienza direi che poi anche questo dipende da situazione a situazione, quindi non c'è una tipologia specifica. Proprio perché una volta che il sacerdote sente di avere dei problemi, sente di, tra virgolette, non funzionare adeguatamente e di creare anche problemi nelle relazioni, nel servizio, eccetera, poi comincia a fare dei passi, a muoversi, a chiedere, a informarsi, a cercare. Tante volte mi arrivano sacerdoti che capitano per caso, non perché cercano un certo tipo di terapia, per caso, sapendo però che hanno bisogno, perché aver bisogno di essere aiutati è una premessa fondamentale, è il passo fondamentale direi, perché poi si comincia il lavoro di sintonia relazionale all'interno di un setting terapeutico. Certo. Professoressa Oliverio Ferraris, pazienti più complessi che mettono più in gioco la competenza e la relazione, la preparazione dello psicoterapeuta, i sacerdoti? Oppure ci sono delle categorie più difficili di altri? Ma più difficili, direi che il terapeuta deve essere un po' all'altezza del suo paziente, anzi magari un gradino più su. Cioè, non può il paziente essere una persona molto colta e diciamo molto elaborata dal punto di vista mentale e il terapeuta essere una persona molto semplice che mette in campo soltanto così delle tecniche e basta. Ecco, certo. Deve saper reggere, ecco, questo è sicuramente molto, molto importante. E poi il sacerdote può essere anche lui una persona più o meno elaborata, semplice, eccetera. È chiaro che ha tutta una sua struttura che gli viene dalla religione, quindi il terapeuta deve saper muoversi anche in quest'ambito. E poi il sacerdote poi, diciamo, assomiglia anche a molti altri pazienti, anche lui ha un inconscio, ecco, e quindi può non essere consapevole di tutta una serie di reazioni che magari ha represso nel corso del tempo, emozioni di cui non ha preso atto e così via, insomma. Quindi diciamo assomiglia a tante altre persone, per questo poi si capisce che può avere bisogno di una specialista che lo aiuti a vedere più chiaro in se stesso. Ecco, il passaggio è capire di avere bisogno e capire che è arrivato il momento di farsi aiutare e quindi evitare quella chiusura che forse viene così istantanea, quegli atteggiamenti che mettiamo in atto proprio per nascondere il problema. Un grande sportivo, Marco Meoni, palleggiatore della squadra di volley di Verona, in linea con noi. Marco, grazie. Buongiorno a tutti, ciao, grazie a voi. Marco, tu hai rilasciato un'intervista sulla Gazzetta dello Sport, la confessione di Meoni, e io posso dirti che ti abbraccerei, perché hai fatto un atto di grande coraggio, ma soprattutto di grande utilità. Io ti lascio la parola, perché abbiamo parlato molto di psicoterapia, ma io penso che il tuo messaggio arrivi molto, sia proprio la ciliegina sulla torta. Marco. Ma innanzitutto grazie di avermi chiamato. Penso che i passaggi, quando capitano determinate situazioni che apparentemente sembrano inspiegabili, nel senso che io mi sono trovato in una situazione veramente dove dal controllo totale di quello che facevo e di me stesso sembrava di essere controllato da situazioni esterne, ma che erano dentro di me. E nel momento in cui mi sono reso conto che, come sempre avevo fatto, da solo non potevo uscire da questa situazione perché era indipendente dall'allenamento, cioè sì, il sistema che utilizzavo sempre per correggere me stesso nei miei modi di vivere, la mia professionalità, ho pensato di parlare proprio con una persona che faceva del suo lavoro questa attività, quindi una psicologa dello sport. Ecco, infatti tu concludi, così noi concludiamo la trasmissione, sì, quello che mi sento di dire è: chiedete aiuto, lasciate da parte l'orgoglio e la paura e fatevi venire incontro dalle persone che vi vogliono bene, e poi da chi può, con le giuste competenze, far accendere la luce e ritrovare la strada giusta. Un abbraccio a Marco Meoni, grande, un ringraziamento speciale alla professoressa Anna Oliverio Ferraris, a Giuseppe Crea, ad Alberto Pellai. Grazie a voi che ci avete seguito, a domani. Essere e benessere.